Rieccoci sempre con Rock Legends su Radio RCS l'Onda Veronese. Le frequenze le facciamo dire come tradizione ai nostri ospiti, in questo caso a Fabio di Seed & Feed. Ok, allora, sono 98.6 per la Bassa Veronese e zone della Lessinia, 101.5 per Verona città e rimanente provincia, 91.5 per la zona Lago, e Radio RCS la si può ascoltare anche attraverso lo streaming dal sito internet www.radiorcs.it. Continuiamo con un bel salto negli anni 90, con la prima scena rock inglese di quel decennio, caratterizzata da band divenute famose molto spesso dopo aver terminato la loro parabola musicale. La prima canzone aveva titolo In a Different Place ed è contenuta nel disco dei Ride Nowhere del 1990, band che ha lasciato 4 dischi ai posteri ma che è stata messa nel cassetto in fretta e furia con l'avvento del rock alternativo americano, nonostante un sound emozionale molto in linea con i tempi. Che ne dici? Beh, sì, sicuramente una band notevole. Purtroppo questo è stato il destino di molti gruppi che avrebbero meritato di più durante il loro periodo di attività, un po' come è successo anche ad altri artisti in genere, diciamo. Tra l'altro, beh, una curiosità, il cantante dei Ride, Andy Bell, è poi diventato il bassista degli Oasis, no? E poi chitarrista di BDI. Diciamo che lui almeno con l'esperienza successiva si è rifatto. Beato lui. Mark Gardner invece continua a proporsi da solista, ma senza tanto successo. Una lunga notte è il titolo del vostro nuovo disco. Qual è il significato che avete voluto dare a questa frase? Beh, innanzitutto Una lunga notte è il titolo della prima canzone del disco, e poi Una lunga notte perché il nostro periodo di inattività in studio di incisione è stato piuttosto lungo, quindi in questo caso diciamo che Una lunga notte sta per un lungo silenzio, se vuoi. Dopo Una lunga notte c'è sempre un'alba, quindi ecco il nostro risveglio dopo Una lunga notte con questo nuovo disco, insomma. Nel 1994 esce Split, terzo disco della formazione guidata dalle chitarriste Mickey Bernie ed Emma Anderson, da cui ci sentiamo l'intensa ballata When I Die. Questi sono i Lush. Door, they raise their hands. She's Band inglese amata nel circuito alternativo americano, autrice di un sound sognante e pieno di chitarre stratificate. Che ne dici? Beh, sinceramente non le conoscevo, ma penso siano sicuramente degne di attenzione. Bello il pezzo, mi è piaciuto. Vostri ascolti musicali, quali sono e quanto influenzano la composizione dei brani? Allora, i nostri ascolti musicali sono molto ampi, siamo veramente a 360 gradi, anche se penso che le band che ci hanno più influenzato siano state quelle che hanno fatto parte della scena post-hardcore americana degli anni 90, tipo i Far Side, S.M.I.M., i Scesa a Parte, ma anche band da un suono un po' più duro, tipo gli Helmet, i Deftones. Beh, il fatto che ascoltiamo molto, molta musica di diversi generi ci influenza inevitabilmente, infatti penso che questo sia il motivo per cui i nostri dischi siano parecchio diversi fra di loro, soprattutto quest'ultimo, Una lunga notte, che ritengo sia un disco molto variegato, dove si possono sentire le influenze un po' di tutte le band che ho menzionato prima. La seconda parte si chiude con i Charlatans, band ancora attiva sia live che in studio, autrice di un rock inglese influenzato da sonorità funk. Nel 1995 escono con l'omonimo album che mutua sonorità dell'emergente Britrock di Oasis e Supergrass, e la canzone che ascoltiamo da questo album si chiama Here Comes a Soul Saver. Nella terza e quarta parte ascolteremo sei brani del disco dei Seed & Feed dal titolo Una lunga notte.